24, la storia. Sapete qual è il problema della televisione? Quello che voi vedete in televisione è il risultato di prove, stress, ansie, conferenze stampa, discussioni, critiche, non critiche, giornali. Quindi è una cosa pesantissima e non è fatta per me. Non ce la faccio più, forse all'età, ma non mi va. Cioè proprio non mi va. Vi spiego. Quando fai lo spettacolo dal vivo, fai uno spettacolo. Quando fai la TV, fai un'altra cosa, che non è uno spettacolo, è la televisione. Tu fai conto che un pezzo che faccio in teatro, che dura, in teatro lo faccio durare un quarto d'ora, 20 minuti, in televisione dura 7. E quindi non è per me, non è per me. Io tutte le volte che ho fatto la TV l'ho fatta, sì, è venuta anche molto bene, abbiamo avuto grande successo. Però non è stata divertente, non mi divertivo, era stressante. L'ultimo più grande spettacolo dopo il weekend, che è stato quello che ha avuto più successo, abbiamo toccato punte del punto del 50%, 53%, il 52% li fai solo con Sanremo da un po', e quindi è stato pesante. Poi ho ricevuto tante di quelle critiche, io dicevo, ma com'è possibile che tutti questi, io non faccio uno spettacolo contro qualcuno, invece no, appena arrivo in televisione si scatenano tutti. Vabbè, a parte che ci sono pure i social, quindi vabbè, i social non fanno testo, scusate, ma i social, se ci mettiamo adesso a dar retta agli haters, a quelli che stanno a casa davanti al computer, che diciamo, chi c'è stasera in TV? Benamo, e fa, quelli non do retta. Ma tu dici, ma tu fai il programma solo per le critiche? No, proprio non mi va. Io dico, ma perché devo imporre la mia presenza in televisione? Perlomeno vado in teatro, mi vengono a vedere solo le persone a cui, insomma, che mi stimano, a cui piaccio. Mentre in televisione, bene o male, vai per tutti. Che dicono gli haters di Periscope? Dove sono? Non ci sono. No, gli haters di Periscope sono quelli che, i radical chic snob, lo dico per quelli che non hanno mai sentito questa mia invettiva, sono quelli che, non sapendo fare Periscope, usarlo, cioè, perché quando fai Periscope non puoi preparare, no? Niente, non hai una battuta, le cose, non te le puoi scrivere, devi essere, se non sei non lo puoi fare, non hai argomenti, non lo puoi fare. E molti che fanno i fighi su Twitter, che scrivono le battute, i battutari da Twitter, che per scrivere una battuta ci mettono magari mezz'ora, la pensano, poi la scrivono, su Periscope non ce la fanno. E allora, quando non ce la fanno, quando la volpe non può arrivare all'uva, dice che l'uva non è buona. Tutto qua, semplicissimo. Io non lo so fare, io critico il mezzo. È un classico. E indovinate chi non c'è su Periscope? Tutti quelli che fanno i battutari su Twitter, perché hanno paura. Avete paura di misurarvi con la diretta, state nascosti vigliaccamente dietro le tastiere dei vostri computer a pensare, a rimuginare su cosa scrivere di molto divertente, e ci riuscite, siete bravissimi, ma dal vivo, in diretta, non ce la fate, come diceva Funari, non ce la fate, siete scarsi. La diretta, il teatro, palco davanti alla gente, Periscope è la stessa cosa, sei in diretta. Era un estratto dello sfogo di Fiorello attraverso Periscope, la nuova applicazione di Twitter che permette di fare una ripresa in diretta con il proprio telefonino. È un'invettiva che ha fatto molto discutere, che ha toccato temi vari dalla TV all'uso dei social come Facebook e Twitter, utilizzati solo per criticare gli altri. Il tutto è partito da una richiesta dei fan di tornare in TV e Fiorello sembra aver detto il suo no definitivo. Ma la carriera di Fiorello è esplosa proprio da lì, dalla televisione. Rosario Fiorello, per gli amici Saro, classe 1960, siciliano di Augusta. Per tutti è Fiorello, un irresistibile mattatore in televisione, in radio, in teatro. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia. È il 15 ottobre 2001, è nato Viva Radio 2.